What's your name? Zev. Che cosa fai? What do you do, Zev? What I did this evening was a performance of what is called cymatics, which is the visual representation of wave formations using electronic percussion to vibrate some water that is lit with a very bright light, and then a video camera captures, because the light is so bright, it just gets the very top of the waves. So you're hearing sound waves, and then you're seeing these wave patterns. No, ha detto che lui, quello che ha fatto oggi è stato quello di suonare rappresentando le onde di luce. Quindi praticamente ogni onda che tu vedevi era una rappresentazione in immagini di quello che lui suonava con la musica. Quelle onde sonore, quelle onde luminose che tu vedevi sullo schermo e che brillavano. Okay, questo è quello che ha fatto lui oggi pomeriggio. Okay. Da quando hai iniziato a suonare con la batteria elettrica? Perché hai iniziato a utilizzare strumenti veri? When did you have started to play drums? And when did you start to love music? I think I always loved music, and I started to play drums very early, like bambino, like okay. 3 years. Mama would, in morning, put pots and pans and silverware on floor for toys. So I would play. And then around 5 years, ho iniziato a suonare la batteria veramente molto presto, ero ancora un bambino. E niente, suonavo gli oggetti lasciati sul pavimento, e così, ed è così che ho iniziato a suonare la batteria. And then 5 years old, I made first drum set from boxes and tops from the coffee cans, and then at 8 years old I started study percussion, and then 12 years old was first time I was paid money to play. A 5 anni ho iniziato a suonare la mia prima batteria rudimentale fatta con delle scatole e una caffettiera e così. E poi a 8 anni ho preso la mia prima lezione di batteria e 12 anni dopo ho iniziato a guadagnare i miei primi soldi suonando la batteria. La sua musica dove la sente? Ok. Where did you feel your own music when you play? I think always. E le immagini come le pensi? Ah. And what about the images? Because you play music and there are also images. Where do you... I don't. The images come absolutely... The sound you hear, same sound, goes to a little amplified speaker. And on top of amplified speaker sits a container, the bottom cut off, and just some black plastic, some water fills in. So speaker vibrate and makes waves, and then that's lit with the light and a video camera. So I don't make images. Sound makes images. Non è lui che inventa le immagini, è il suono che fa le immagini. Piena d'acqua con una luce del modo. It was your invention? No. First person to notice vibration makes things damp. Well, first person they know of was Galileo in 1632 or so, in his notebooks. And then about 50 years after he died, an English scientist did first... Galileo only made notes, because maybe a year or two after, then started with the heresy. His trials, his heretic, and he couldn't do anything for a long time after. Yeah, no experiments anymore. He went and lived in somebody's castle or something. You wanna... Non l'ha inventato lui, è molto vecchia, l'ha inventata, cioè diciamo che fondamentalmente l'ha inventata Galileo, però non lui ha scritto solo delle note. e non poteva realizzarla all'epoca. Poi è stato, poi dopo è stato uno an English scientist. And then an English scientist. È stato uno scienziato inglese. And then after him, a Swiss. Dopo di lui uno svizzero. And then after him, well, so English like 1680. 1680, okay. The Swiss about 1750, something like this, 1750. Okay. And his name, Chladni, Chladni, it was the Swiss. Chladni was the Swiss, and now his. He published a book with the images but he would have a glass plate and a flower and then with a bow and it would vibrate and it goes into very specific like geometric each note has a very specific pattern and then after him these patterns are now called Chladni patterns. They're named after him. They use them for instrument makers. Use them to make sure that when you play, like when they're building a violin, and they go to play a violin, that when it hits C, then that the stuff makes the right pattern. You know what I mean? So that is, the instrument is the body is resonating correctly. And I think that Stradivarius, yes, this was maybe his secret. Was that he discovered this and so made sure that all his instruments were anytime you did the right note, the right pattern. I think. Prima c'è stato uno scienziato inglese intorno al 1600, poi c'è stato uno scienziato svizzero che ha perfezionato questa tecnica di praticamente di verificare quali immagini corrispondevano a determinati suoni per ogni strumento. Quindi che cosa succede? Cioè, questo scienziato svizzero. What's the name of Chladni? Praticamente riempiva l'acqua anche con dei fiori, con delle cose, poi suonava gli strumenti e a seconda delle vibrazioni che facevano gli strumenti, sull'acqua si creavano determinate immagini, dei pattern. Ad ogni nota, ad ogni singola nota corrispondeva una determinata immagine che si creava sull'acqua. E lui crede che forse Stradivari avesse scoperto questa tecnica ed è per questo che i suoi violini fossero così precisi, perché lui provava le note e sapeva a quale nota corrispondeva quel determinato disegno sull'acqua. Quindi lui guardava i disegni nell'acqua a seconda delle immagini precise che c'erano sull'acqua. Se c'era quell'immagine significava che il violino era. Because the Stradivarius between the English scientist and Chladni and Swiss. So I think in his it would very easy to imagine that there's still some sawdust on the body of a violin and he hits the note and he sees that it goes and moves into a pattern. If you see what I mean, that to imagine him noticing that and then developing it so that he would have seen all the pattern. I think it's possible. Then after him, in the 1960, you have Hans Jenny, who starts to do very, very systematic experiments with all kinds of different materials and waveforms and stuff, makes various instruments and stuff, and he calls it cymatics. Cymatics, the study of these wave patterns, the patterns that sound makes, and that's how it's normally called now. And so I knew about him, and it's only 2009 I started to work with this audiovisual way. And first time I started with salt on a drum head with big speaker underneath. But what happens is when it goes to make a pattern, all the material moves to the edges. So the first time I was doing it, it was like a kind of composition tape, computer composition. So I could sit and keep putting salt onto the head. So, but I couldn't play live, because, Okay, so. Ok, prima ha parlato un altro po' di Stradivari e lui crede che questo sia stato effettivamente il segreto di Stradivari. Poi c'è stato nel Novecento un altro scienziato che ha fatto degli studi sistematici su questo e lui sta continuando in questa tradizione. I suoi primi esperimenti non erano fatti come adesso con l'acqua e con la luce, ma con il sale. Cioè lui praticamente metteva il sale su un tamburo da batteria e sotto ci metteva l'amplificatore. Però che cosa succedeva? Che il sale creava delle composizioni, però tendeva a cadere tutto verso i bordi e quindi lui doveva continuare a mettere il sale, però era impossibile suonare e mettere il sale. So then I'm thinking how to do it, how can I do this live? And I remember in 1980s I lived in Amsterdam and could look down on one of the canals, and when it would rain and the wind and stuff, you'd see, I would watch all the different waves, and I remembered this, and so I realized that, see, the water goes out to the side, but the water comes back in. When it hits the end, it comes back. But so I could use water. But when you do this in a room like this, full of people, of noise people, the images make distortion with the noise of the people. No. Only because it was that in back corner of room. You didn't see. So I'm playing on the stage. Then back at same level as the speaker, but over on the side was the speaker and the container and the light and the camera. Only sound that vibrates the speaker is the sound that goes like into the PA. So I have two channels of sound that come from my electronic drum synthesizer. One goes to PA, and one goes to speaker. I have a personal consideration. It was long time that I don't hear a music beauty and full like tonight. It was a very, very long time that I... Okay. Quindi lui faceva questi esperimenti col sale. L'idea di farlo con l'acqua gli è venuta quando viveva ad Amsterdam, perché vide la pioggia che cadeva. Lui stava pensando a come fare per fare una cosa di immagini, però senza avere questa cosa di mettere il sale. Quando ha visto la pioggia che cadeva sui canali e ha visto le onde che si formavano, ha avuto l'idea, ha detto devo usare l'acqua, e quindi ha creato questo sistema che abbiamo visto stasera. E io gli ho chiesto se per caso, quando c'è tanta gente rumorosa in una stanza, può dare fastidio, ma non dà fastidio perché nel caso di stasera lui ha messo il recipiente con l'acqua in un angolo lontano dal rumore, e l'unica cosa che arrivava dal canale dello speaker, quindi comunque le immagini non hanno nessuna distorsione dal suono dell'ambiente. It's not like a microphone in the room picking up what I play and then all the sound. That's a different, it would be a different piece. You could do that. You could do that. I have to know how to play music. No. I mean, I could do it so that the noise from the audience also affects the sound. If you did it with, I don't mean you, but a person. Okay, you could, everyone could play, and then from a microphone that goes to the speaker that shakes the water. So all the ambient sound is then. That's a possible piece. Maybe I'll do it sometime, and I have to say you guys are my collaborators, so I need your name. Okay. And where will you go after Bologna? In Italy? Or Faenza tomorrow night, and then Jesse on the 30th. Yeah. Jesse is in Italy. Ancona. By Ancona. On 30. And then on 4 January I go to London for like 9 hours, and then go to Germany to do record CD with Limpa Fuchs from the group Anima back in the 70s, the German percussionist. And then go to the United States, and then come back, and then many other then things. And where do you live today? Today I live in Sasso Marconi. I'm staying in Sasso Marconi with John Duncan. Wow. So in between shows, I'm staying with him. I was a week in Anzio with some friends, and I also then will go to Parma and see a friend, and to Milano and see a friend. And so South Italy? No, 6 weeks. 6 weeks. Okay. 6 weeks. Not okay. So short. Okay. And so do you like Italy? Yeah, I love Italy. Okay. Because I'm not Italian, I can love Italy. You see, you're Italian, you can't love Italy. And what about the Italian music? I thought Nicola's group tonight, the first group, I thought they were wonderful cinematic music. Very cinematic, very, very good. I've seen some very good things. Yeah, there's some very, of course, very excellent. There's excellent people everywhere. There's now with computers and home studios, there's more people doing mediocre stuff, but there's still always very good people everywhere. Ok, ha detto che lui piace tanto l'Italia, che adesso farà un tour, andrà a Faenza, poi vicino Udine, e poi tornerà a Londra a registrare Londra for Record. Down in Germany. In Germany, ok, so. E poi in Germania per registrare un disco, e poi farà il suo tour, e poi tornerà negli Stati Uniti, insomma un sacco di altri posti. E adora tanto l'Italia e gli è piaciuto tanto il gruppo di Nicola che ha suonato prima, anche perché oggi con questa cosa del digitale si fanno tanti dischi, tante cose mediocre. La musica che le è piaciuta di più scrivere? What's the work that you, your own work that you like the more to create, to write? Which one is? Whatever one I'm doing at that moment is my favorite. Qualsiasi sto facendo adesso è il mio favorito. Quindi tutto sullo, diciamo, sul momento. You like the extemporary creation? No, I also compose. I do a lot of composing, and then writing. I'm doing some sculpture. Oh, okay. So art. Yeah, art, yeah. So no, fa tante cose. Si scrive, pensa, fa delle sculture. Mi piace lavorare tranquillamente. Okay. Okay. Thank you. Thank you.